Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zoodi 105 Channel, registrato da Anthony. Per altro materiale, cerca su Telegram Zoodi 105 Archivio Bot. Wender e Fabio Alisei presentano... Questo è Polaroid, istantanee di storia della musica. Mi chiamo Robert Medill. Sono un sopravvissuto che vive a New York. Sto trasmettendo su tutte le frequenze in onde medie. Sarò al porto di South Street tutti i giorni. A mezzogiorno, quando il sole è più alto nel cielo. Se ci siete, se c'è qualcuno, da qualche parte, posso offrire cibo. Posso offrire riparo. Posso offrire protezione. Esistono molti modi per diventare una leggenda. Sopravvivere ad un'apocalisse zombie nel cuore di Manhattan è sicuramente uno di questi. Ma anche eccellere nello sport, compiere un'impresa eroica, essere un punto di riferimento della propria comunità e, naturalmente, scrivere la storia della musica. Soprattutto quella non ufficiale, quella senza fonti scritte, quella che preferisce il dietro le quinte ai palchi, le stanze d'albergo agli studi, la tradizione orale ai documenti audio e video. È l'epopea degli aneddoti tramandati da tecnici e musicisti che, come moderni rapsodi, trasformano le imprese segrete delle star del pop e del rock da episodi di cronaca a pagine del mito. False, vere, scorrette o verosimili, arricchite o storpiate dalla fantasia di chi narra e di chi ascolta, andiamo a scoprire 10 incredibili leggende sulla vita delle star. Anno dopo anno, racconto dopo racconto, in una raffica di scatti col flash. Sedete intorno al fuoco. Inizia Polaroid. Polaroid. Istantanee di storia della musica. Luglio 1969. The Mud Shark Incident. L'ambientazione è l'Edgewater Inn nello stato di Washington, una mezza topaia mangiata dalla salsedine dove gli organizzatori del Seattle Pop Festival hanno parcheggiato le star dell'evento. I protagonisti sono i Led Zeppelin, Rod Stewart e il cantante dei Vanilla Fudge, che ha appena comprato una telecamera Super 8 e non vede l'ora di provarla. La situazione è che la stanza degli Zeppelin è a picco sulla scogliera e Robert Plant decide di pescare dalla finestra. Nel frattempo fa irruzione in camera una gruppi rossa naturale. E si capisce subito perché non porta le mutandine. Improvvisamente Robert acchiappa all'amo uno squaletto, uno spinarolo per la precisione, e tutti insieme, gli Zeppelin, Rod Stewart e la tizia coi capelli rossi e il cantante dei Vanilla Fudge, decidono che quel pesce verrà usato come dildo vaginale davanti alla telecamera. E ragazzi, che bello il melone! La leggenda dice che il numero si ripeterà più volte e che si arricchirà di altri pesci, conficcati sempre consensualmente, in altre tane improvvisate messe a disposizione dalla fanciulla coi capelli rossi. 40 anni dopo, nella loro biografia ufficiale, i Led Zeppelin negheranno l'esistenza del Mud Shark Incident. Ma sarà troppo tardi, perché nell'ambiente l'aneddoto è già diventato leggenda, come loro. What? estate 1970. L'amico annegato. Phil Collins ha 19 anni ed è in vacanza coi genitori a Brighton, nel sud dell'Inghilterra. Un giorno esce in barca con un amico d'infanzia, remano fino ad un centinaio di metri dalla costa e si mettono a pescare. Il mare è agitato, un vento da ovest fa rollare l'imbarcazione e l'amico di Phil, forse ubriaco, cade in acqua. Phil vorrebbe tuffarsi per salvarlo, ma non sa nuotare. E l'amico, a quanto pare, nemmeno. La sua unica speranza è un terzo ragazzo seduto sul molo poco distante. Phil si sbraccia, urla, cerca di attirare la sua attenzione, ma il ragazzo sul molo fa finta di non vederli. L'amico di Phil si dibatte, perde le forze e muore annegato. E questi sono i fatti. La leggenda invece narra che qualche anno dopo Phil Collins abbia invitato il ragazzo del molo al concerto di presentazione del suo primo album da solista, lo abbia fatto accomodare in un posto in prima fila e gli abbia offerto una bevanda nella quale aveva sciolto dell'LSD. Prima dell'esecuzione di In the Air Tonight, infine, Phil avrebbe chiesto di puntare un faro sul tizio seduto in prima fila e avrebbe raccontato al pubblico quanto era stato vigliacco all'epoca dell'incidente in barca. L'epilogo della leggenda vuole che il tizio si sia suicidato per la vergogna una volta tornato a casa. Ma questa, come dicevamo, è solo una leggenda. E il tizio seduto sul molo, senza muovere un dito, potrebbe essere proprio Phil Collins. La precisa definizione del male. New York City. Debbie Harry ha appena smontato da un club dove ha suonato con quelli che di lì a poco diventeranno i Blondie. Deve attraversare tutta la città, ma non ci sono taxi nei paraggi. Mentre cammina nella notte, le si affianca un tizio con un maggiolone bianco e si offre di darle un passaggio. Debbie pensa che non sia una buona idea, quindi tira dritto, ma il tipo la segue, suona il clacson, insiste. Non è neanche un brutto uomo. Ha un sorriso magnetico e una luce strana negli occhi. Così, alla fine, Debbie accetta il passaggio e sale in auto, ma appena chiude lo sportello, capisce di aver fatto una cazzata grossa come la passera della Statua della Libertà. Gli interni dell'auto sono a pezzi. Le maniglie delle portiere sono state rimosse. Il tizio puzza di cadavere e ansima quando parla. Fuori gli isolati scorrono uno dopo l'altro. Debbie abbassa lentamente il finestrino, centimetro dopo centimetro, per cercare di aprire la portiera dall'esterno. A un certo punto il tizio se ne accorge e sterza di colpo in una via laterale, ma Debbie si è già tuffata fuori dall'auto, rotolando sul cemento. Si alza, butta via i tacchi e si mette a correre finché non le scoppia il torace. Per 15 anni quell'episodio rimane soltanto un brutto ricordo parcheggiato nella mente di Debbie, finché un giorno, al telegiornale, vede il volto di un assassino che sta per friggere sulla sedia elettrica, l'uomo più cattivo della storia d'America, la precisa definizione del male, Ted Bundy, il tizio col maggiolone bianco di quella notte a New York. E il ricordo diventa leggenda. istantanee di storia della musica, si ferma e torna tra poco. Solo su Radio 105. Questo è Polaroid. Istantanee di storia della musica. Su Radio 105. Febbraio 1977. Coca. Tanta coca. Una montagna di coca. La cocaina esplose nella cultura americana come una bomba atomica. Partì da Hollywood e si estese fino all'East Coast in un attimo. Si facevano tutti, ma dico proprio tutti. Manca poco alla prima data del Rumors World Tour. I Fleetwood Mac sono a Long Island e Stevie Nicks, la cantante, si è appena chiusa in una stanza d'albergo con $1,000,000 in polvere bianca. Un fottuto milione di verdoni da ficcarsi interamente nel naso. Anzi, nel naso non più, perché ormai le sue narici sono così ustionate dal transito di bamba e acidi che i vasi sanguigni sono diventati impermeabili. Per cui Stevie deve inventarsi qualcosa. Ha 10 kg di neve colombiana e ha intenzione di spararsela tutta. Così manda a chiamare il suo assistente personale, gli dà una cannuccia, si abbassa le mutandine e gli ordina di soffiargliela dentro il sedere. Esatto, proprio lì. Una cerbottana di cocaina supera il culo. Dopo 48 ore, Stevie Nicks crolla esausta sul pavimento e probabilmente anche il suo assistente. Quando si sveglierà, scoprirà di essere praticamente cieca. Colpa della coca? No, si è addormentata con le lenti a contatto. Che ragazza distratta. Of the lonely. 1992. L'aborto di maiale. Che David Bowie sia un tipo strano è cosa nota. Del resto è un inglese che non ama il tè, che non viaggia in aereo, ha un occhio diverso dall'altro e una volta, durante un viaggio in Cina con John Lennon, ha mangiato un uovo macerato per 1000 giorni nell'urina di cavallo. Così, quando David Wild, giornalista di Rolling Stone, decide di intervistarlo, è preparato a qualsiasi tipo di eccentricità. E infatti l'intervista è un vero successo. David Bowie è così felice che decide di inviare al giornalista di Rolling Stone un regalo per ringraziarlo. Un feto di suino morto che galleggia dentro un barattolo di vetro. La leggenda narra che l'oggetto sia tuttora conservato alla dogana dell'aeroporto JFK, insieme ad un crocifisso che diventa un pugnale d'argento, un'anaconda viva, un guanto di Freddy Krueger funzionante e ad una forbice di 1,70 m. Tutte leggende mai entrate sul suolo americano. Put on your red shoes and dance the blues. To the song. Accumulatore seriale. Nella splendida cornice di Hollywood Hills, Marilyn Manson apre le porte della sua villa ai giornalisti di Rolling Stone America. La visita ha lo scopo di raccontare un aspetto poco noto ai fan del reverendo: la sua passione per il collezionismo. Il tour inizia da una stanza in cui sono conservate alcune migliaia di libri illustrati per bambini. Si passa poi al ripostiglio per i flaconi di Zyklon B, il gas usato per i campi di concentramento, naturalmente originale. Una piccola pausa caffè su un tavolino costruito con pistole e fucili fusi insieme e il giro si conclude nella stanza da letto, nella quale troneggia un dipinto di John Wayne Gacy. Se non lo ricordate come artista del pennello, forse ne avrete sentito parlare come Pogo the Clown o Killer Clown, giustiziato con iniezione letale nel 1994 per il rapimento, la tortura, lo stupro, l'omicidio e l'occultamento di cadaveri di 33 adolescenti. Del resto, quando si sveglia al mattino, Brian Warner è Marilyn Manson, mica Cristina D'Avena. '96, ultime volontà. Las Vegas. Searching for black Jews. Oh yeah. Black Jews and shit, you know what I mean? C'è una strofa di Black Jesus in cui Tupac Shakur parla della propria morte e dice una roba tipo: me ne andrò con un bicchiere di liquore esplosivo in mano, cremate il mio corpo e fumatevi le mie ceneri. La prima parte della strofa non è andata esattamente come il Machiavelli se l'aspettava. Fuori dall'MGM Grand, invece di un cocktail bombastico, si ritrova in pancia tre confetti di piombo sparati da un'auto in corsa. E bye bye Tupac. Così la sua crew, gli Outlaws, decidono di omaggiare la seconda parte del testo, quella che parla della cremazione.

si ferma e torna tra poco, solo su Radio 105. Su Radio 105 c'è Polaroid, istantanee di storia della musica. 2009, quoziente intellettivo. California. Con un QI di 230 punti, il fisico e matematico Terence Tao è probabilmente l'uomo più intelligente del mondo. Per capirci, è uno che a 3 anni parlava 4 lingue e a 8 ha ricevuto il suo primo dottorato di ricerca in matematica discreta a Princeton. Ma non tutti i piccoli geni, cioè quelli con un QI superiore a 140, sono destinati a diventare dei topi da laboratorio. Gary Kasparov ha scelto la scacchiera. Rick Rosner è stato il produttore dei chips. Nicole Kidman e Sylvester Stallone? Beh, sono la Kidman e Stallone. Mr. Bean, infine, ha il doppio del quoziente intellettivo di Chris Brown. Sì, quello che menava Rihanna. E a proposito di Rihanna, le cantanti più dotate sono Madonna, Lady Gaga, Alicia Keys e Kesha. Proprio quest'ultima, che possiede un QI di 144 punti, ha deciso di sprecare la propria intelligenza per dedicare una canzone alla cosa più stupida della storia dell'uomo: TikTok. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Drop top and playing my favorite CDs. Pulling up to the parties, trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop, DJ. Like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he getting too drunk, drunk. Nah, nah, we go till they kick us out. The police shut us down, down. Police shut us down, down. Po-po shut us down. Don't stop. Terzo millennio, la civiltà dell'immagine. Primo febbraio 2004, intervallo del Super Bowl. Janet Jackson e Justin Timberlake duettano al centro del Reliant Stadium di Houston, Texas. Parte Rock Your Body. Come da scaletta, Justin rimuove la parte superiore dell'abito di Janet, ma qualcosa non va per il verso giusto. Il vestito si strappa. Lei rimane con le tette al vento per un paio di secondi davanti ad 1 miliardo di telespettatori. Poi la CBS va a nero e in rete esplode il Nipplegate. Le 35.000 ricerche al secondo effettuate sui vari motori accendono una scintilla nella mente di 2 ex impiegati di PayPal. Un portale di video amatoriali. Un'idea che si chiama YouTube. 4 anni prima, la cerimonia dei Grammy Awards aveva scatenato un olocausto di ricerche simultanee e reso necessaria una nuova invenzione. Un abitino molto scollato, firmato Versace, aveva fatto implodere il colosso di Mountain View, rendendo necessaria la creazione di Google Images, un motore di ricerca apposta per rivedere le tette di J.Lo. I'm open, de-escalate, saw the W game to the valet, knew that it was game when you looked at me, pulling up your sleeve so I could see the roly blade. Saw you later in the corner booth, raising up a toast so I would notice you, but your heart's a mess, think you ought to know, doesn't matter if you're balling out of control. Thought you'd understand, baby, credit cards are in romance. Still you're trying to buy what's already yours. What I need from you is not available in stores. See inside of you that I really feel. Doing way too much, never keep it real. If it doesn't change, gotta hit the road. Now I'm leaving with my keys, I've got to go. Traccia fantasma. È il 22 ottobre e un milione di fan in ogni angolo del mondo attende la pubblicazione di 1989, il nuovo album di Taylor Swift, prevista per la fine del mese. Alle 16:13, ora della East Coast, alcuni subreddit rimbalzano il rumor che su iTunes sia stata uploadata una prima traccia dell'album, dal titolo Track 03. L'indiscrezione si diffonde a velocità fibra. Migliaia di users si riversano sulla piattaforma e scaricano il brano. Dopo meno di un'ora, Track 03 finisce nella top 10 di 24 paesi del mondo, addirittura prima in Canada. Ma che cos'è questa misteriosa Track 03? Niente, un errore. 8 secondi di rumore di fondo caricati per sbaglio da qualche tecnico della sua etichetta. Una svista che ha fatto guadagnare a Taylor Swift oltre $1 milione in un giorno solo e che, ironia della sorte, resterà il suo singolo più venduto dell'album 1989. What is happening? Per scrivere una leggenda servono almeno tre persone: chi compie l'impresa, chi la racconta e chi la ascolta. Non esiste racconto senza questi ingredienti, ognuno indispensabile, ma al contempo inutile se sconnesso dagli altri due. È su questa particolare alchimia che si reggono i miti, il teatro, la radio, la storia stessa. Loro che la fanno, noi che la raccontiamo e voi che la ascoltate ogni settimana, sotto forma di scatti di Polaroid. Polaroid, istantanee di storia della musica, torna domenica prossima alle 23. Alle 23. Su Radio 105. Polaroid è una produzione Zodi 105. Ideato da Wender e Fabio Lisei. Voce Lucilla. Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zodi 105 Channel. Registrato da Anthony. Per altro materiale, cerca su Telegram Zodi 105 archivio bot.